Parliamo della crisi sociale acuita dalla pandemia e dalla crescente difficoltà economica. Uno specchio di questi aspetti lo troviamo nell'aumento delle richieste d'aiuto che registra l'Antoniano nel suo progetto Operazione Pane. Per parlarne siamo al telefono col direttore dell'Antoniano, frate Giampaolo Cavalli, che innanzitutto saluto. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, nelle vostre mense ci sono sempre più persone che si presentano. Sì, Operazione Pane è una rete che tiene insieme tante mense francescane sparse su tutto il territorio italiano, da Torino, passando per Milano, arrivando a Bari, Palermo, Roma, Bologna. E c'è un dato che questo tempo di pandemia ci consegna, che è l'aumento delle persone che hanno bisogno di aiuto. Se confrontiamo i dati con il 2019, ci sono alcuni elementi che sono veramente preoccupanti, che non rasserenano su questo fronte. Un aumento delle famiglie di quasi il 70% che nel 2021 sono state aiutate rispetto all'anno precedente. Significa famiglie, significa papà, mamma, bambini, e hanno bisogno di essere aiutati per arrivare a fine mese. Solo nella nostra rete, che dà un segnale, sono oltre 1500 i bambini che hanno bisogno di essere aiutati con un sostegno alimentare, 1200 famiglie, per cui significano, sono dei numeri molto importanti, molto grandi, che raccontano di un disagio crescente. Questo lo verifichiamo a Bologna, ma è un dato che poi riscontriamo un po' su tutte le altre realtà che accompagnano e sostengono chi ha bisogno. Su Bologna c'è anche un altro dato che mette in evidenza quanto questa pandemia che stiamo vivendo, questo periodo così strano, abbia impattato su quelle persone che vivono in una situazione di difficoltà e che magari prima della pandemia riuscivano in qualche modo a gestire i loro bisogni e le loro necessità senza ricorrere a un aiuto come quello della mensa. Nel 2019 con la mensa abbiamo aiutato a Bologna circa 450 persone. Nel 2021, dall'inizio dell'anno a ottobre, perché questi sono i dati che abbiamo a disposizione oggi, abbiamo aiutato circa 1200 persone, no? Significa quasi tre volte di più le persone che sono venute a chiedere un aiuto. E questo è un dato che fa vedere come il disagio, la povertà si sia allargata e quante di più siano le persone che hanno bisogno. Con le mense francescane, con Operazione Pane, con l'Antoniano a Bologna cerchiamo di dare delle risposte che soprattutto sono una prima risposta immediata a un bisogno come quello del cibo, altri bisogni immediati che possono essere, che ne so, per le famiglie, tutto nell'acquisto di beni di prima necessità per il bambino che va a scuola, per il cibo del bambino, per qualche cura, ma soprattutto poi diventa un percorso per aiutare queste persone, queste famiglie, laddove è possibile, ad uscire da questa situazione, mettendole in rete con chi li può aiutare, con i servizi, con altre persone che gli possono stare vicini, perché desideriamo proprio che la situazione di povertà sia una situazione transitoria, perché ognuno è un'opportunità, una ricchezza, un valore per l'altro, per aiutarci, per sostenerci, perché noi riusciamo a fare questo perché c'è chi cammina con noi, volontari, persone che ci aiutano con il loro sostegno. Operazionepane.it è un sito dove potete trovare tutte le indicazioni, ma soprattutto in questi giorni c'è un numero, l'SMS è solidale, basta o una telefonata da fisso oppure un SMS al 45588 che ci aiuta a dare un po' di speranza a tante persone. Avete avuto modo di indagare le cause di questa nuova situazione di difficoltà che vivono le famiglie? Cos'è la perdita del lavoro? A cosa è dovuto? È una situazione, come accennavo prima, legata a famiglie, a persone che vivevano già una situazione di difficoltà perché avevano un lavoro precario, oppure perché non ce l'avevano e vivevano di qualche espediente o di qualche piccola attività ogni tanto, che durante la pandemia ha perso di rilevanza o è sparita. E poi anche un altro dato sono delle attività che durante questo tempo di pandemia si sono azzerate o molto molto ridotte. Pensiamo a tanti servizi legati al turismo, al viaggio, alla presenza così temporanea di persone in città, che si sono molto diradate rispetto al tempo prima della pandemia, per cui tanti lavori che erano legati a questo tipo, al turismo, al movimento, allo spostamento, e Bologna è una città molto visitata e molto attraversata, tutte queste cose si sono un po' diradate o sparite in alcuni casi, e quindi tante delle persone che gravitavano intorno a questi servizi si sono trovate in grosse difficoltà. Certo. E anche alcune ristrutturazioni di aziende che hanno messo in fatica delle persone. E ad essere in fatica o ad essere entrate in questa zona che si è fatta ancora più grigia, di solito purtroppo sono persone fragili nella loro struttura di lavoro, di sostentamento, di progettualità, e quindi sono soprattutto queste persone che sono entrate in questa fascia numerosa di persone che sono in bisogno e che da sole non ce la fanno più. La solidarietà ovviamente è importantissima, ma servirebbero anche interventi istituzionali, immagino. Sì, beh, la solidarietà o l'aiuto che possiamo dare con le mense francescane, con l'Antoniano o con tante altre, e anche che istituzioni che si mettono accanto alle persone in difficoltà, è un aiuto di supporto. Certamente per affrontare una situazione come questa ci vogliono interventi che siano molto più strutturali. Bisognerebbe provare ad avere un punto di vista diverso. Papa Francesco molto provocatoriamente ci ricorda che dovremmo cominciare a guardare la realtà da chi sta dietro, non da chi sta davanti, perché ci accorgeremo di altre cose. E anche le dinamiche sociali o i progetti, no, le politiche sociali avrebbero un'attenzione diversa se partissero da chi sta in fondo alla fila e non da chi, con lo sguardo di chi sta in fondo alla fila e non di chi sta davanti alla fila. Una bella scommessa, perché mettersi dalla parte, uso forse una parola un po' forte, però per rendere l'idea, mettersi dalla parte dei perdenti non sembra mai la scelta giusta, però forse potrebbe regalarci delle grosse sorprese, anche perché io sono convintissimo che ogni persona è una risorsa per l'altro. Dovremmo giocarci un po' di più su questo. Io la ringrazio molto. Grazie e buona giornata. Altrettanto.